Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Chiunque all'ascolto può contribuire a farla vivere. Uno dei modi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 6180 4001, da intestare a Radio Onda Rossa, via De Volsci 56 00185 Roma. Oppure si può, visitando il sito internet della radio, che è ondarossa.info, sulla homepage c'è l'opzione sostieni per la modalità PayPal. Siamo quasi all'appuntamento con Visionari, anzi siamo all'appuntamento con Visionari, il cinema tutti i giovedì su queste frequenze. La scaletta di oggi la trovate sia sul sito della radio alla voce trasmissioni Visionari, sia sulla pagina Facebook. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info e potete seguirci in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal computer, sempre sul sito internet della radio. Sulla homepage c'è l'opzione ascolta la diretta. Tanti gli ospiti di quest'oggi, a cominciare dai film in uscita oggi giovedì 30 ottobre, per passare poi ad alcuni festival, ma ne parliamo subito perché cominciamo i collegamenti. Bene, allora siamo in collegamento con il critico Maurizio Porro, come direttore del quotidiano web di cinema Cult Week, che sarà online da sabato 1 novembre. Maurizio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Eccomi, grazie, buongiorno a tutti. Credo che sia la di prima volta. Di cinema e anche di altro, eh? Di cinema e di altro, non ci limitiamo. Senti, Maurizio, credo sia la prima volta che ci sentiamo su queste frequenze. Sì, penso proprio di sì, ma è un'occasione così, insomma, gradevole e anche utile per me, perché appunto noi tentiamo di fare questo quotidiano in rete dove si parli di cultura e spettacolo, dividendo proprio la materia in spicchi, sì. Come a scuola, no? L'ora di letteratura lunedì, l'ora di musica, l'ora di cinema, l'ora di arte, l'ora di teatro, diviso per uno dei giorni della settimana, e poi nel weekend ci sarà uno spazio più consono ad approfondimenti, interventi, qualche intervista, qualche polemica se c'è, eccetera eccetera. Ci piacerebbe insomma raggruppare le materie, perché sì, la cultura è trasversale, più che mai oggi lo è appunto con i mezzi di comunicazione, ma non solo, è trasversale proprio per sua natura. Cinema e teatro, a mio parere, ne sono un esempio clamoroso, perché sono due parenti strettissimi. Certo. Maurizio, da dove è venuta fuori l'idea? Ma l'idea io la covavo da tanto tempo, perché mi sarebbe sempre piaciuto farlo di carta, perché ovviamente io sono nato di carta, però è chiaro che per le ragioni che tutti sappiamo adesso questa cosa non si può fare, per cui a un certo punto abbiamo detto con altri colleghi e soprattutto con i ragazzi giovani dell'università che parteciperanno molto proprio come autori degli articoli, abbiamo pensato facciamo un quotidiano di recensioni, di approfondimenti online. Del resto insomma in America Variety, che è una testata famosissima, c'è da decenni, e Variety più dal punto di vista del marketing, della produzione eccetera, però si occupa di tutte le branche dello spettacolo. Allora, diverse pagine dedicate ad arti e spettacolo. Volevo chiederti intanto in quante sezioni, se si può dire così, è suddiviso. Dunque, diviso in 5 sezioni, ciascuno avrà il suo giorno della settimana. È diviso in arte, letteratura, musica, cinema e teatro. E sarà? Quindi avremo ogni giorno 4 pezzi, uno più grande e 3 più piccoli, e poi ci sarà tutti i giorni, e naturalmente muterà tutti i giorni, un'agenda anche con la mappatura, in modo che si può cliccare sui luoghi di Milano e vedere che cosa accade. Un'agenda in cui si dà conto di tutte appunto le manifestazioni collegate alla cultura dello spettacolo che avvengono quella sera a Milano. Il Baricentro è Milano, naturalmente, tra l'altro siamo anche ospitati dall'associazione Chiama Milano, ma non solo per questo, perché appunto la cosa nasce qui, e più o meno la materia dello spettacolo e della cultura insomma non ha una matrice cittadina regionale, il teatro gira e più o meno arriva, insomma il film sono quelli, i libri anche. per cui abbiamo pensato che comunque Milano in ogni caso è un po' una capitale della cultura e dello spettacolo, sicuramente del teatro. Per esempio in questo momento Milano è vivissima, ha le multisale teatrali, ha un pubblico, e quindi in questo senso non ci mancherà certo la materia, voglio dire, ci sono moltissime iniziative. Adesso poi con questa patologia dell'Expo andiamo incontro a un anno, credo, abbastanza denso di avvenimenti. Senti, come è strutturata la redazione? Ma abbiamo un responsabile di ogni settore, naturalmente, come se fossero dei capi redattori. Si possono anche equiparare, e poi ogni redazione, quindi ogni materia di quella che abbiamo detto, ha 6, 7, 8, insomma, ripeto, ragazzi giovani che faranno è brutto dire la manovalanza, faranno i critici giovani per dar voce proprio a delle voci diverse, perché io facendo alla statale un corso di storia della critica ho incontrato molti ragazzi e ragazze molto bravi, giovani, che ovviamente non hanno possibilità per ora di esprimersi, quindi l'idea mi è venuta proprio anche da questo, che mi piaceva evidenziare il rinnovamento generazionale e nello stesso tempo fare una cosa in cui tutti noi, giovani e meno giovani, ci crediamo profondamente, insomma, lottiamo per certe battaglie, siamo un po' partigiani in senso lato di certe manifestazioni e meno di altre. Qualcosa che riguardo alla critica così e alla recensione, tutti sappiamo che ormai i giornali seguono molto meno di una volta, certo. Lo spazio si riduce sempre di più, per cui possiamo un pochino in controtendenza, ecco, spero. Senti Maurizio, trattandosi di una trasmissione di cinema, ti chiedo relativamente alla sezione cinema come avete pensato di strutturarla. Dunque, è strutturata come le altre sezioni, cioè ci sarà un'apertura e poi ci sono tre pezzi più piccoli, quindi sono quattro recensioni ogni settimana più un pezzo di approfondimento nel weekend, che è una pagina che dura 2 giorni, che potrebbe essere dedicato al cinema o anche ad altre materie. Per esempio noi cominciamo sabato e abbiamo un pezzo inedito scritto da Mario Martone, molto bello, che parla naturalmente del suo giovane favoloso Leopardi, che tra l'altro sta avendo un inaspettato, meritato successo, e ne parla dal punto di vista della fotografia. È una lettera al direttore della fotografia Renato Berta, che ci ha dato così gentilmente in esclusiva, dove parla del disegno e della sua visione appunto di come vorrebbe la luminosità e la paesaggistica del film. Per cui altre volte poi ci saranno degli interventi sul teatro, insomma dipende un po' da cosa succede nel mondo, da cosa succede a Milano, sì. E i film, sai, in questo periodo non mancano certo le prime, per cui adesso fino a maggio-giugno certamente saremo pieni di cose, tant'è vero che come ovvio non riusciremo a recensire tutto, insomma, quindi si fa una scelta, e sì. La scelta vuol dire già una scelta, vuol dire già essere da una certa parte invece che dall'altra. Comunque adesso escono in Castella, escono i Dardenne, esce il film di Assayas, esce un sacco di cose, a teatro ci sono commedie e drammi interessanti, insomma cominciamo in un momento molto positivo e molto propositivo. Importante non tralasciare nulla, io credo che appunto parlando di teatro si debba parlare anche di commedie musicali, anche di danza, anche il teatro poi è la materia che più di ogni altro adesso diventa spuria, ma non lo dico in senso negativo, lo dico in senso che assume altre connotazioni. Ripeto, il cinema e il teatro sono talmente imparentati che spesso oggi il teatro ha degli effetti speciali, non dico pari a quelli digitali, ma insomma ha imparato un po' dal cinema, e d'altro canto il cinema, quando non viaggia nel fantasy, usa delle sceneggiature di ferro che spesso assomigliano a dei copioni teatrali. Sì, sì. Maurizio, dato che hai parlato così, hai sottolineato in maniera così importante il cinema e il teatro, si può già pensare a qualche forma di collaborazione, visto che qui abbiamo anche una trasmissione di teatro che fa gli spettacoli dal vivo in studio, quindi insomma magari qualcosa ci può venire in mente. Noi siamo apertissimi, figurati, alle collaborazioni in questi settori. Sì, io ho parlato soprattutto di cinema e teatro perché naturalmente sono un po' le mie materie. È chiaro che tutto quello che ho detto io riguarda anche la musica, l'arte e la letteratura, ciascuno ha la sua, diciamo, il suo quadro degli eventi. ma sicuramente siamo vorremmo fare anche espanderci un pochino, nel senso di, certo, di tenere a battesimo cose, di presentare iniziative, libri, di fare delle iniziative anche collegate all'università. La nostra sede lì chiama Milano in via Laghetto, è proprio a un passo dall'Università degli Studi di via Festa del Perdono, per cui sarebbe bello che i ragazzi partecipassero, non solo quelli che scriveranno, ma anche proprio come una forza motrice, non so, metti nel campo del video, dei corti, di queste cose che adesso moltissimi ragazzi fanno, per cui insomma speriamo in molte e trasversali collaborazioni. Benissimo, chiudiamo lasciando i riferimenti internet per chi volesse saperne di più. Sì. Naturalmente www.cultuvit.com. Benissimo. Ecco, il .com è importante, se non viene fuori altre cose. Maurizio, io ti ringrazio, magari avremo modo di riparlarne in futuro. Certo, no, sono io ovviamente che ringrazio te, ringrazio voi e chi ci ha ascoltato. Un abbraccio e a presto. A presto, grazie, ciao. Un abbraccio anche a te. Ciao. Maurizio Porro, direttore del quotidiano web di cinema, ma non solo, Cult Week Online da sabato 1 novembre. Con Giulia Pellini, coordinatrice della quinta edizione di Interiora, mostra ciò che hai dentro, festival horror indipendente al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino qui a Roma dal 31 ottobre da domani fino al 1 novembre. Giulia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Allora, quinta edizione, quali sono, intanto chiariamo a chi ci ascolta, le caratteristiche di questo festival? Allora, Interiora è il primo festival che si occupa a tutto tondo di tutte le arti ispirate all'horror, quindi che abbiano come tema l'orrore. E, sin dalla prima edizione abbiamo sempre avuto 5 categorie artistiche che sono cinema, musica, arti visive, performance e letteratura. Chiaramente tutti i bandi sono gratuiti e man mano nel tempo è andata a crescere fino a che quest'anno siamo riusciti finalmente ad arrivare in tutti i continenti, quindi è un festival non solo internazionale ma proprio mondiale. Senti, per quanto riguarda il cinema, chiaramente? Per quanto riguarda il cinema abbiamo alcuni fuori concorso, delle proiezioni chiaramente indipendenti e poi i cortometraggi in concorso che quest'anno saranno 32. Sì. E tutti di un livello veramente molto molto molto alto. E, la premiazione è fatta dalla scuola Cineteatro con gli insegnanti e anche gli studenti che hanno avuto modo di vedere i cortometraggi e di decidere il vincitore, insomma, per quanto riguarda il premio del regista e il premio degli attori. Senti, quest'anno c'era un tema particolare legato all'orrore, avete scelto una tematica su cui concentrarvi? Sì, quest'anno ci siamo concentrati sulla danza macabra e quindi diciamo una sorta di memento mori, che poi è tra l'altro un tema già ampiamente sviscerato sia per quanto riguarda la letteratura, la musica, le arti visive, naturalmente anche il cinema, e quindi ci sembrava di proporre un tema dove c'è ancora molto da dire e su cui esprimersi, ma che comunque si ricollega con un qualcosa che ci tocca tutti profondamente, la morte, e quindi di cercare un po' di esorcizzare collettivamente questa esperienza parlandone e ricordandoci appunto della caducità della vita. Senti, restando in campo cinema, come sono strutturate le giornate? Allora, i cortometraggi quest'anno inizieranno alle 18:30, quindi raccomandiamo la puntualità per poterli vedere nella sala cinema, ma per chi dovesse arrivare più tardi, cioè comunque li mandiamo in loop e li mandiamo al Teatro del Forte, insomma, che ci consente di poter allestire costantemente una zona dove vengano proiettati i corti, così chiunque arriva ha modo di poterli vedere. Mm-hmm. Abbiamo veramente da tutto quanto il mondo, tra l'altro diversi italiani anche in concorso, e lo specifico perché solitamente si dice, sai, il cinema italiano non è tanto buono, figuriamoci quello indipendente. Non è vero niente, invece i nostri cortometraggi in concorso, gli italiani sono davvero molto belli e in qualche modo ci rendono orgogliosi di aver di poterli ospitare. Anche perché è da tempo che c'è cinema horror italiano e sotterraneo. Esatto, infatti è impressionante il numero di festival che si occupano proprio di horror, non solo i più famosi, insomma noi più o meno cominciamo ad essere abbastanza conosciuti anche a livello internazionale, ma anche proprio cortometraggi, festival di cortometraggi indipendenti, e devo dire che ce ne sono tantissimi proprio in risposta, secondo noi, alla fiorente produzione italiana che comincia ad adeguarsi agli standard europei, insomma comincia ad essere molto molto interessante e ben fatta. Senti, al di là della danza macabra, rispetto ai lavori che vi sono arrivati, quali sono per te, che penso ne abbia visti parecchi, le paure principali di questi tempi? Allora, questa è una domanda molto interessante e non ti posso dare purtroppo una risposta secca, perché devo dire che c'è, insomma, a differenza di quello che solitamente uno si aspetta, non c'è questo slasher, questo splatter, quindi insomma tutto quanto sbudellamenti vari, ma si cerca di andare ad indagare diversi tipi di paure. Per esempio, ci sono sia storie di paura di bambini, sia storie molto psicologiche, ma soprattutto, questa è una cosa che poi ha caratterizzato sempre Interiora, l'utilizzo dell'horror come linguaggio per poter esprimere un concetto di critica sociale. Quindi questo ci interessa molto e troviamo che appunto l'horror sia un linguaggio che consenta la massima libertà e consenta di poter esprimere tutta una serie di concetti che tramite il cinema appunto riescono a trovare un ottimo canale. Senti, in chiusura diamo i riferimenti internet per la programmazione? Allora, trovate tutto quanto sul sito sia del Forte Prenestino, che è fortebrenestino.net, e sul sito di Interiora, che è interiora.it, quindi facilissimo, tanto se digitate Forte Prenestino Interiora su motori di ricerca vi usciranno tonnellate di pagine. Senti, dal 31 ottobre, cioè da domani, fino al 1 novembre, gli orari? Gli orari d'apertura sono il 31 ottobre alle 16:30 con la festa per i bambini, che è gratuita, l'ingresso si comincerà alle 18 per il festival e il giorno successivo sempre dalle 18. Benissimo, allora un abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille per questo spazio. Ciao Giulia. Ciao. Ciao a tutti. Giulia Appellini, coordinatrice della quinta edizione di Interiora, mostra ciò che hai dentro, festival horror indipendente. Centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, qui a Roma dal 31 ottobre al 1 novembre. Passiamo adesso ai film in uscita. Oggi, giovedì 30 ottobre, ne parliamo intanto con Claudio Rapino di Koch Media sulla distribuzione del film Annie Parker. Claudio, ci sei? Sì, buon pomeriggio. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille. Allora, un film importante per alcuni motivi, spiegaci un po' di cosa si tratta, Claudio. Beh, il film tratta un argomento molto importante, che è quello della prevenzione dei tumori al seno. Infatti narra la vera storia di due donne in parallelo, due donne che hanno vissuto in maniera diversa, diciamo, questi drammi. Una è Annie Parker, che dà il titolo al film, interpretata da Samantha Morton, bravissima, e l'altra è Ellen Hunt, che è Mary Clark King, che è la vera dottoressa che negli anni passati, negli anni 80, inizio anni 90, ha trovato il genoma che porta a riconoscere i tumori al seno. Quindi l'argomento, soprattutto in questo mese di ottobre, che è il mese rosa della prevenzione, è molto molto importante. Claudio, come nasce questo film? Allora, questo film nasce proprio dalla ricerca di Steven Bernstein, che è il regista, di raccontare una storia drammatica, però dai risvolti grotteschi o comici, perché il messaggio non è un film istruttivo, non è un documentario che tende, diciamo così, a tediare lo spettatore narrando solo gli esperimenti scientifici che hanno portato alla scoperta, ma proprio accompagna attraverso la vita di Annie Parker a capire quali sono i momenti di dramma e come una donna riesce a affrontare un momento così importante come quello di un tumore al seno. Calcolate che Samantha, scusate, Annie Parker ha avuto veramente 3 volte un tumore al seno, vincendo e uscendone sempre più forte che prima. Ecco, in parallelo due donne, una operata per tre volte sopravvissuta al tumore, e dall'altra una dottoressa che ha lottato contro l'ostilità dell'Accademia della Medicina. Esatto, perché fino la cosa ironica che ci ha colpito leggendo la sceneggiatura era che, cosa che noi ignoravamo, che fino agli anni 90 si pensava ancora che il tumore al seno fosse solamente un caso di sfortuna, mentre Mary King ha lottato mostrando a uomini più potenti di lei e anche le case farmaceutiche che era impossibile che all'interno di una famiglia il ripetersi delle metastasi al seno potessero essere solo un fatto di casualità o di sfortuna. E questo ha cambiato la vita a molte donne. Ricordiamo che dobbiamo a una donna come lei il fatto che ora popolo femminile possa riuscire attraverso una semplice analisi anche del DNA a capire se potrà avere o no un tumore al seno. E per questo ci siamo legati, ci tengo a dire, alla Susan G. Komen Italia, che è l'associazione proprio per la lotta ai tumori del seno, per portare questo messaggio di prevenzione e donare anche una parte degli incassi a loro per riuscire a organizzare sempre più manifestazioni che possono informare le donne di quello che possono riuscire a fare. Senti Claudio, come dimostra anche il film, in un paese come gli Stati Uniti sono soprattutto le grosse case farmaceutiche a dettare le regole. Esatto, questo è ormai, diciamo che è un filo conduttore di molti film che abbiamo visto, quasi tutte storie vere, però mostra anche come poi sia alla fine la volontà, la testardaggine dei dottori, in questo caso di una dottoressa, a riuscire a far capire che dietro tutto quello che è un business dei medicinali c'è comunque un paziente da riuscire a curare. Mm-hmm. Senti Claudio, come avete incontrato questo film e poi come avete deciso la distribuzione in Italia? Beh, il film, allora, se mi ricordo bene, l'abbiamo incontrato attraverso una sceneggiatura di 2 anni fa a Cannes. E sceneggiatura bellissima che ci ha colpito proprio perché per quel modo di raccontare una storia così drammatica in una maniera leggera e soprattutto per un cast che era già stato attaccato alla sceneggiatura, bellissimo. Pensiamo a Samantha Morton o Ellen Hunt, ma anche agli stessi attori secondari che sono Aaron Paul o Ben McKenzie. Per lanciare il film siamo subito, come ho detto, confrontati con la realtà italiana, quindi abbiamo contattato la Susan G. Komen Italia, che ci ha dato la disponibilità della partnership per veicolare il messaggio sia del film che della loro associazione, e stava a dire che abbiamo deciso che ottobre era il mese adatto e perfetto per portare il film al cinema. Senti, qual è l'esperienza della vostra distribuzione? Beh, Koch Media Italia ormai è 2 anni che effettua distribuzione cinematografica sia di titoli più di qualità tipo Annie Parker, sia di titoli un pochino più commerciali, e stiamo ancora crescendo e diciamo che nel 2015 abbiamo una bella prospettiva con titoli molto più di appeal commerciale che dovrebbero portarci degli ottimi risultati. Claudio, in quante copie esce Annie Parker? 20 copie. Benissimo, allora da oggi al cinema. Un abbraccio e a risentirci per le prossime novità. Grazie mille. Ciao. Claudio Rapino di Koch Media sulla distribuzione del film Annie Parker, in uscita in sala oggi giovedì 30 ottobre. E con piacere rincontriamo Alessandra Speciale per parlare della rassegna Altri Schermi, mercoledì d'autore da Africa e Asia al Cinema Beltrade a Milano dal 29 ottobre al 17 dicembre. Ci sei Alessandra? Sì, oh, ciao. Ben ritrovata. Senti, c'è stato già il primo appuntamento, ti chiedo intanto com'è andata. Va bene, ieri sera abbiamo cominciato con un film della Costa d'Avorio, Le Jassa à Prix Feu, un film presentato a Berlino 2 anni fa e poi al nostro festival qua a Milano, e devo dire che abbiamo anche fatto un bel lavoro sulla comunità ivoriana, per cui sono anche venuti dei ragazzi della Costa d'Avorio a vedersi il film, e quindi è stata una bella atmosfera. Senti, mercoledì d'autore, quindi un giorno della settimana, una singola proiezione ti chiedo, e poi quante opere presenterete? Questo progetto è un progetto che abbiamo messo in piedi noi del Festival del COE con il Cinema Beltrade, che è un cinema in questo momento che a Milano sta facendo veramente una bella programmazione alternativa, che dà spazio anche a queste distribuzioni alternative come la nostra. E abbiamo avuto anche un piccolo fondo della Fondazione Cariplo per portare avanti questo nostro discorso, per cui questo non è che un assaggio di quello che poi continueremo a fare anche nel 2015. E abbiamo già a marzo dell'anno scorso, cioè di quest'anno, presentato un ciclo di classici africani, mentre adesso nel mese di novembre, e anche con una puntata a dicembre, presentiamo 5 titoli invece di giovani autori, quindi proprio nuova ondata di registi. Spesso sono opere prime o seconde, ma che hanno avuto comunque una bella accoglienza ai festival internazionali degli ultimi 2 o 3 anni, e siamo andati a scovare delle vere e proprie chicche. Questo film, vi dicevo, della Costa d'Avorio di ieri, era uno dei primi film della Costa d'Avorio a low budget, fatto proprio dai giovani del paese, tra l'altro un anno prima dello scoppio della guerra civile, perché dopo sarebbe stato probabilmente difficile. In effetti ci ha messo 3 anni questo film poi a uscire, proprio per gli effetti della guerra. Il prossimo appuntamento invece sarà con The Mirror Never Lies di Camila Andini, che è una regista, una giovane regista, la sua opera seconda, dell'Indonesia, è figlia del grande Gary Nugroho, che è forse il più grande regista indonesiano, ma lei appunto è degna figlia del padre, perché esordisce con un film che anche questo ha fatto poi il giro di grandi festival internazionali, da Berlino a Toronto, e ci porta, tra l'altro ci trasporta in un posto meraviglioso, l'arcipelago di Wakatobi, che già solo per le immagini vale la pena di andare a vedere il film. Il film poi, tra l'altro, è anche una bella favola che ricorda le leggende dei miti tra l'uomo e il mare, di quella popolazione che vive appunto nell'arcipelago di Wakatobi. Mm-hmm. E poi continuiamo sempre con giovani autori come Alain Gomis, che ci presenta Aujourd'hui, presentato al nostro festival 2 anni fa e a Berlino in competizione sempre 2 anni fa, e qui siamo in Senegal, quindi ritorniamo in Africa. E invece poi gli altri 2 titoli, sono 5 per adesso, vengono dall'Asia: Ice Bomber di Lee Cho, un film che ha presentato quest'anno a Berlino, che viene da Taiwan, anche qui una bellissima storia, tra l'altro vera, legata a un terrorista improvvisato, un contadino di Taiwan a cui portano via le terre, e comincia a costruire delle bombe di riso che spargono il terrore a Taipei, in realtà sono innocue, ed è un biopic, perché racconta proprio la storia vera di questo contadino, che poi è diventato quasi un eroe nel suo paese. Senti, Alessandra, ci dicevi anche di debutti e di buoni riscontri nei festival internazionali. Ecco, quali altri criteri avete usato nella scelta dei titoli? Ma la scelta dei un criterio fondamentale era che sono film che sono passati ai nostri festival, quindi già selezionati da noi, sì, e che abbiamo preso in distribuzione e che ce li hanno dati in distribuzione, quindi già questo partiamo già quindi da una selezione fatta su queste basi. E poi ovviamente tra i film che abbiamo qui, abbiamo voluto dare una una panoramica anche su paesi che raramente sono rappresentati sugli schermi, e, soprattutto in Italia, e quindi Costa d'Avorio, Indonesia, Sri Lanka, Taiwan e Senegal, quindi andare a cercare anche il cinema che arriva da lontano, tant'è vero che il sottotitolo della rassegna è il cinema che racconta il mondo. Mm-hmm. E anche un approccio, se vogliamo, anche realistico al racconto del mondo, tant'è vero che ad esempio il film di ieri della Costa d'Avorio, che ci ha raccontato il ghetto di Abidjan, tra l'altro parlato in questa lingua incredibile che loro parlano, che è il Nushi, che è un misto di francese divertentissimo con tanti termini africani dentro, e era un film al limite del documentario, se vogliamo, pur avendo poi una trama da gangster movie. E anche il film che vedremo di Camila Andini, pur essendo una favola e quindi avendo un'impostazione di fiction, in realtà è anche un film molto molto fatto di immagini prese dal vivo e improvvisate presso queste popolazioni che vivono nell'arcipelago di Wakatobi, vivendo su palafitte, muovendosi sulla pirogue, quindi c'è anche un aspetto, se vogliamo, documentario e di scoperta di realtà lontane e quindi, ripeto, poco rappresentate al cinema. Ci salutiamo ricordando i riferimenti web per la programmazione? Sì, per la programmazione potete trovarla sul nostro sito del festival, festivalcinemaafricano.org, o direttamente anche sul sito del COE, coeweb.org, oppure sul sito del Cinema Beltrade di Milano. Benissimo. Alessandra, un abbraccio e alla prossima. Un abbraccio. Ciao. Grazie, ciao. Alessandra Speciale per parlarci della rassegna Altri Schermi, mercoledì d'autore da Africa e Asia al Cinema Beltrade a Milano da ieri 29 ottobre fino al 17 dicembre. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il giovedì dalle 14 alle 15, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per parlarci del film Pelo Malo, in uscita in sala oggi giovedì 30 ottobre. Paolo, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie per avermi invitato di nuovo, grazie per la vostra attenzione e buongiorno a tutti. Tra l'altro ho dedicato la copertina di questa trasmissione al film con un fotogramma del protagonista. Ho visto, l'ho notato e ti ringrazio, ci fa molto piacere. Raccontaci questa storia, Paolo. Ma noi siamo davvero felici di poter distribuire Pelo Malo, che avendo vinto il Festival di San Sebastian, avendo vinto ben 4 premi al Festival di Torino, pensavamo non fosse alla nostra portata. Invece ce l'abbiamo fatta ed è una grande storia, una storia ambientata in Venezuela, che parla naturalmente del Venezuela di oggi e parla anche di ciò che noi conosciamo anche dalla cronaca, Chavez, il chavismo e tutti i risvolti sociali, ma in realtà racconta di una storia in fondo universale, il rapporto tra un bambino e la madre, il rapporto tra il bambino e la sua identità, e un nero in una realtà sociale in cui comunque ancora il nero è discriminato. C'è anche l'istinto della madre a proteggerlo dalla potenziale omosessualità, e quindi la paura dell'omofobia porta la protezione della madre a temere che il bambino sia un omosessuale. Sono tutti temi che detti così possono sembrare temi di un convegno, in realtà nel film scorrono all'interno di una storia piacevolissima appassionante e con un leitmotiv anche di una canzone che c'entra comunque con la storia, che è Milimon Milimon Nero, che è una canzone popolarissima in Venezuela da tantissimi decenni. Paolo, un tema forte è anche quello del lavoro, delle grosse difficoltà a trovarlo. Assolutamente, la madre lotta tutti i giorni per trovare lavoro, e per lei trovare lavoro significa poter crescere i suoi due figli, cioè Junior, quello dai capelli ribelli, dai capelli brutti secondo lui, perché sono ricci, crespi, appunto dei neri dell'America Latina, e però lei lotta anche perché lo ha perso il lavoro a causa di un incidente, lei faceva la vigilante. E lotta perché questa è comunque la sua emancipazione, ma è anche un principio, cioè poter essere reintegrata indipendentemente dalle questioni sull'articolo 18, ma lei vuole essere reintegrata perché non ritiene di non essere all'altezza del lavoro. Quindi per lei significa autonomia, altrimenti è costretta a dare il bambino alla nonna, il bambino alla vicina, insomma a conciliare lavoro e automantenimento. E quindi questa sua ricerca è una peregrinazione che sembra quasi un road movie all'interno di una città, all'interno di Caracas, da questo punto di vista. Quindi ci sono molte storie intrecciate in un unico complesso narrativo che è molto molto appassionante. Senti, che forma avete pensato per la distribuzione di questo film? Ma proprio perché è un film importante, che ha ottenuto anche ieri addirittura il suggello di film della critica, questa volta siamo riusciti a uscire naturalmente in più sale rispetto al nostro standard di partenza, e proprio perché comunque c'è molto interesse. Partiamo con una dozzina di sale, ma da nord a sud, quindi ben distribuite, e già per la seconda settimana ci sono piazze importanti come Napoli e Bari, che in prima battuta restano fuori, che sicuramente entreranno, come Bologna, e quindi credo che mi auguro che si diffonderà un po' in tutto il territorio nazionale nel giro di due o tre settimane, e naturalmente i risultati anche della prima settimana saranno, come per tutti i film d'altronde, saranno la spinta per poter diffondere ancora di più il film. Senti, qualche notizia in più rispetto alla regia? Ma intanto noi siamo molto contenti che nel listino di quest'anno, su tre film in previsione di uscita, due sono diretti da donne, questo di Mariana Rondon e il prossimo Matteo di Maria Gamboa. Mariana Rondon è una regista che ha molta esperienza, l'ultimo film che si era fatto notare nel festival internazionale era Postale da Leningrado, cioè Cartoline da Leningrado, che però non era un film ambientato a Leningrado ma sempre ambientato in America Latina, e Mariana Rondon ha lavorato parecchio per realizzare questo film, e si vede che un film semplice, ma dietro questa semplicità c'è tutta una preparazione scena per scena. Ha lavorato tre mesi prima di girare il film rendendo familiare l'attrice Samantha Castillo ai due bambini, e ha lavorato come se fosse un gioco, cioè due bambini hanno potuto recitare spontaneamente, essendo stati preparati da Mariana Rondon, come un gioco in famiglia. E tra l'altro Samantha Castillo, attrice esordiente al cinema, questo film ha vinto il premio per la migliore interpretazione femminile al Festival di Torino. Paolo, ieri mi hai raccontato un aneddoto che mi ha fatto particolarmente piacere. C'è qualcuno che ti ha scoperto il tuo lavoro proprio ascoltandoti in questa trasmissione? Sì, è Gianni Amelio, un carissimo amico da diversi anni, da più di 30 anni, che appunto mi ha detto: ma io ho sentito parlare di voi e non gli veniva in mente il nome, poi io gli ho ricordato Radio Onda Rossa, perché ho capito dalla descrizione della trasmissione, gli ho detto sì, è proprio Radio Onda Rossa, infatti io lo seguo sempre, Federico Raponi, eccetera. Insomma, e quindi mi ha fatto molto piacere di essere in sintonia con Gianni attraverso la vostra trasmissione. Paolo, senti, allora da oggi in sala Pelo Malo, un abbraccio e a risentirci presto per le novità. Grazie a voi tutti e buona visione a tutti, grazie. Ciao Paolo, ciao. Oh, questo Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per il film Pelo Malo. Bene, un altro film in uscita proprio oggi è quello di Leonardo Guerra Seragnoli, regista del film Last Summer. Ci sei, Leonardo? Ci sono, ciao, buongiorno a tutti. Ciao, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Allora, è stato presentato al Festival del Film di Roma proprio pochi giorni fa, ottenendo anche un riconoscimento. Sì, poi abbiamo avuto la menzione speciale del premio TAO 2 Camera d'Oro, quindi è stata una bella emozione, perché anche le parole di Valerio Mastrandrea insomma erano molto, mi hanno toccato molto, sono stato molto molto bello. Poi abbiamo preso anche altri due premi in realtà: premio Suono, miglior suono, e il premio Akai Rivelazione del festival. Quindi è stato un buon festival. È stato un buon festival. Sì. Senti, Leonardo, come è partito tutto? È partito un po' come un viaggio all'avventura, nel senso che io avevo cominciato un rapporto con i due produttori che poi hanno prodotto il film, che sono Luigi Musini e Elda Ferri, e lavorando su un altro progetto che poi non è andato in porto, e avevo in mente questa storia che ha avuto una genesi un po' mista, e con loro diciamo poi abbiamo cominciato a mettere insieme il progetto. La storia che appunto racconta la storia di questo addio tra una madre e un figlio, che hanno 4 giorni per stare insieme su questa barca prima che lei ne perda custodia definitivamente, una giovane madre giapponese, viene un po' da un misto di, appunto dicevo, di ricordi, cioè un ricordo personale a casa dei miei genitori con una donna che piangeva, e poi per una passione per questo rapporto madre-figlio che trovo molto affascinante, per questo suo essere iniziale, no? Cioè un primo rapporto che come esseri umani abbiamo, e quindi è una cosa che mi ha sempre affascinato. Quindi poi una serie di incontri, come poi succede nella vita, un'idea si sedimenta, rimane all'interno, e poi nel piano pian piano si sviluppa in una storia, in un'idea di una storia, e poi si va alla sceneggiatura e si va avanti col progetto. Un tema molto forte e complicato, quello della riconquista di un rapporto filiale, materno e affettivo. Come ci hai lavorato sopra? Allora, diciamo che ho avuto un team di lavoro molto, molto stimolante. Insieme abbiamo cercato di rendere, anche a livello di scrittura, ho avuto appunto l'appoggio di Barana Yoshimoto sulla costruzione del personaggio della protagonista, quindi di questa madre giapponese, Naomi, e poi anche del fumettista Igor, che mi ha aiutato soprattutto dal punto di vista dell'essenzialità nella riscrittura della sceneggiatura per concentrare la storia. Il tema è un tema complesso, perché in qualche modo voleva raccontare la possibilità di un inizio alla fine di un rapporto, no? Come quando, diciamo che quando c'è una separazione, se questa separazione può portare a una crescita di qualche tipo. Il caso specifico è la crescita, è ritrovare un rapporto nell'addio. Questo simbolo in qualche modo mi affascinava e mi interessava. Il lavoro era quello di cercare di renderla il più il meno sentimentale possibile, ma cercare di raccontare dei sentimenti, quindi riuscire a creare una storia che piano piano si infilasse sotto pelle per chi poi per chi accetta di essere penetrato sotto pelle. E per cui l'idea era comunque quella iniziale, era quella di avere una linea diretta, no? Cioè da un punto di partenza, di distacco, riuscire a vedere se poi alla fine si riusciva ad arrivare a un punto di unione tra queste due, tra madre e figlio, partendo da una lontananza. E quindi abbiamo cercato di costruire una storia che a piccoli passi, con piccoli gesti, con movimenti che apparentemente sembrano anche dir poco, magari, perché sono in fondo all'interno di un contenitore che è questa barca in mezzo al mare, ma sono dei piccoli movimenti che in realtà raccontano dei processi interiori che hanno delle dimensioni molto più grandi. Quindi la speranza era quella di riuscire a fare una storia che in piccoli gesti raccontasse una trasformazione molto grande interiore. Mm-hmm. E quindi era un po', se devo dire, come ho cercato tecnicamente di lavorare, ho immaginato come una lancia, come una spazio, cioè come una linea dritta, no? Che va verso una direzione, quindi un punto di partenza, di distanza, che poi va verso invece una coesione, un'intimità, che poi è quella che alla fine abbiamo cercato di raggiungere. Senti, per quanto riguarda la distribuzione, come ti sei mosso? La distribuzione si sono mossi principalmente i, i produttori, sì. E in questo chiaramente avete dei produttori che hanno fatto molti film in precedenza, come poi succede nell'ambito cinematografico, non solo italiano, ma un po' stando in giro ho capito che comunque il cinema, poi come molte altre professioni, funziona anche su quanto uno ha fatto esperienze in un settore, i contatti, le esperienze. Per cui l'avere loro come produttori ha sicuramente aiutato di poter parlare con diversi interlocutori e capire quale fosse l'interlocutore migliore o quale fosse l'interlocutore che accettava un film che apparentemente a livello distributivo sulla carta è stato abbastanza considerato difficile, perché così è stato detto poi. Quindi devo molto ai produttori in questo senso. Io ho lasciato a loro la gestione del distributore, nonostante sia andato agli incontri, però è difficile, cioè, mi ritengo anche fortunato, perché alla fine in questo momento di attuale cinematografico italiano, ma in generale un po' con la crisi globale che c'è, riuscire a dare al cinema già uscire in un cinema è già una bellissima soddisfazione, una cosa che non è così scontata. Quando si inizia un'avventura con un film non si sa mai poi che fine farà, è un po', no, un viaggio all'oscuro. Senti, tu sei parte di quella fetta di popolazione che se n'è andata all'estero per lavoro? Un po' per lavoro, un po' per studi principalmente. Mi sono trasferito negli Stati Uniti nel 2004 per studiare musica per film, musica in realtà, perché sì, all'epoca cantavo e suonavo in una band, quindi andavo per studiare musica. Poi mi sono molto appassionato alla composizione e ho deciso di laurearmi in musica per film. Poi non ho mai fatto musica, tanto che nel film ce n'è poca, nel senso che e non l'ho scritta io quella poca che c'è. Però di base sono andato più all'estero per studiare, perché cercavo una scuola, questa Berklee College of Music di Boston, che aveva anche una flessibilità, nel senso che non ti costringeva tipo un conservatorio a entrare con uno strumento da subito, ma potevi entrare e poi decidere la tua laurea, diciamo la specializzazione, 2 anni dopo essere entrato, quindi prima facevi i corsi propedeutici. Mm-hmm. Quindi non so se per lavoro, in realtà non posso dire questo, sono andato più per studio e poi mi sono trovato che in realtà avevo una passione per il cinema che coltivavo fin da quando ero al liceo, per cui quando poi ho scelto musica per film, nel frattempo avevo girato un corto nel 2006 a Roma con degli amici e poi nel 2008 ho girato un primo corto a New York di una trilogia che poi ho girato negli Stati Uniti, quindi diciamo che in qualche modo avevo cominciato a scrivere e mi sono trovato un po' coinvolto a lavorare all'estero su appunto dei progetti di cortometraggio e poi da lì ho cominciato a visitare festival, ho cominciato a conoscere persone e sono finito in qualche modo a fare questo film. Senti, per quante copie esce il film? Film dovrebbe essere una dozzina. Una dozzina. 12 copie. Mm-hmm. Sì. Bene, a questo punto un in bocca al lupo, Leonardo, e magari ci sentiamo per delle novità. Va bene, grazie mille. A presto. Crepi il lupo allora. Ciao Leonardo. Ciao, a presto. Ciao ciao. Bene, questo per quanto riguarda il film Last Summer, Leonardo Guerra Seragnoli, che è il regista. E siamo in collegamento con Daniele Terzoli, direttore della 14ª edizione del Trieste Science Fiction Festival, ha cominciato ieri 29 ottobre, andrà avanti fino al 3 novembre. Daniele, ci sei? Hai trovato una sistemazione? Sì, ci sono, buongiorno. Ben ritrovato, sono andato un po' indietro nel tempo, è un po' che non ci sentivamo per questo festival. Sì, infatti, il festival è anche molto cambiato nel corso degli ultimi anni, sia per le location che per l'impianto generale del programma. Siamo alla Sala Tripkovic a Trieste, una ex sala concerti poi trasformata grazie all'intervento del comune anche in sala polifunzionale per il festival di cinema. I nostri uffici si sono trasformati, quindi sta nascendo a Trieste una casa del cinema, un edificio dedicato proprio alla Film Commission, alle attività del cineclub e a quella dei festival, e la fantascienza sta diventando di nuovo un fenomeno di massa, anche qui con il nostro pubblico, ormai la dimensione è sempre più internazionale, pubblico che viene da tutta Italia, oltre che dai paesi vicini, Slovenia, Croazia, Austria, e anche gli ospiti reagiscono con maggior interesse alla nostra manifestazione. Se avete visto il programma, ce ne sono due insomma che non hanno bisogno di presentazioni. Uno è Alejandro Jodorowsky, che in questi giorni in Italia per promuovere il suo ultimo film, La danza della realtà. Sì, tra poco ne dovremo parlare proprio con la distribuzione. Benissimo. E poi abbiamo un'attrice che si è imposta negli anni grazie al CinemaCore, ma poi è diventata un'attrice di film mainstream. Ormai è un'icona pop più che un'attrice, ed è Sasha Grey. Senti, per chi ci ascolta, diciamo quali sono le caratteristiche di fondo del festival, e poi più nello specifico come è strutturata la parte cinema. Sì, il festival nasce con l'idea di un festival di fantascienza, oltre al cinema, per affrontare anche tutte le forme di espressione nelle arti dello spettacolo. Poi la parte cinematografica è quella prevalente, per cui tre concorsi internazionali, uno per il miglior film di fantascienza e fantasy di registi esordienti o emergenti, filmmakers indipendenti che arrivano da tutto il mondo e che concorrono per il premio Asteroide per il miglior film lungometraggio, due concorsi europei che vengono realizzati con la collaborazione di un network europeo che comprende altri festival oltre al nostro, dedicati proprio al cinema di genere fantastico, e quindi un concorso per i lungometraggi e un concorso per i corti che portano all'assegnazione del Méliès d'argento, un premio che poi permette di concorrere per il Méliès d'oro tra tutti quelli che hanno avuto un riconoscimento nei festival del network. C'è uno spazio per le produzioni nazionali che si chiama Spazio Italia, dedicato sia ai cortometraggi che ai documentari che ai lunghi, e quest'anno per la prima volta anche alle serie web. Ci sono eventi speciali e omaggi, quest'anno sono due: uno è quello dedicato a un grande maestro del fantastico italiano, cioè Mario Bava, nel centenario della nascita sarà qui con noi Lamberto Bava, il figlio, per parlare del cinema di questo grande maestro riconosciuto da artisti internazionali come Joe Dante o Roger Corman o Quentin Tarantino. È un omaggio a una leggenda del cinema fantastico come Alejandro Jodorowsky, attivo nella fantascienza anche e soprattutto attraverso i fumetti realizzati nel corso degli anni 70 con la rivista Metal Hurlant, e poi realizzati in forma di serie con Medius. Jodorowsky sarà qui a Trieste per ricevere il premio alla carriera Urania d'argento. Oh, prima abbiamo parlato di horror e ho chiesto, rispetto alle opere arrivate, quali sono le paure di questo periodo, quelle che più presenti. Allora ti chiedo, rispetto alle opere che presenterete, quali sono le principali utopie e distopie della fantascienza di oggi? Ma sicuramente c'è un filone abbastanza presente che oserei definire come un filone green, mi riferisco al fatto che i cambiamenti climatici o i disastri che la nostra civiltà può produrre rispetto al pianeta, anche in termini di mutazioni della specie e delle specie, sono forse l'inquietudine maggiore che trova riflesso anche all'interno del cinema fantastico e della fantascienza. L'altro grande tema che in qualche modo è più forte nel cinema americano e che ormai si protrae specialmente nel campo dell'horror, ma non solo, fin dal 2001 e quindi fin dai tempi dell'attentato alle Torri Gemelle, è quello in qualche modo di un tema dell'invasione, che però non è più quello della fantascienza dell'epoca maccartista degli anni 50, ma è rivisto e riadattato nella forma di Nemici Invisibili. Senti, chiudiamo con i riferimenti internet per la programmazione, Daniele. Sì, certo, sciencefictionfestival.com è il sito più aggiornato, dove compaiono tutte le news, dal quale si può arrivare velocemente anche al nostro Facebook e al Twitter. Benissimo, un abbraccio, buon proseguimento e alla prossima. Grazie. Ciao, buon pomeriggio agli ascoltatori. Daniele Terzoli, direttore della 14ª edizione del Trieste Science Fiction Festival, da ieri 29 ottobre fino al 3 novembre. Abbiamo in linea Salvatore Pecoraro di Garabombo per parlarci della distribuzione del film La danza della realtà di Alejandro Jodorowsky, in uscita in sala oggi giovedì 30 ottobre. Salvatore, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie a tutti voi e anche al vostro pubblico. Ne abbiamo accennato proprio adesso con Daniele Terzoli del Science Film Fiction Festival, perché Jodorowsky sarà anche lì. Eh sì, Alejandro riceverà questa sera lì un premio alla carriera, il premio Urania, domani sera, pardon. Sì. Quindi sì, saremo tutti quanti lì per una bellissima serata. Tra l'altro sarà anche proiettato prima della danza della realtà anche un altro bellissimo documentario che parla della storia di come non è mai stato realizzato da Alejandro, il film che è stato realizzato invece da Delici. È un bellissimo film che arriva in Italia, grazie al Science Fiction anche per questa bellissima iniziativa. Salvatore, e per chi ci sta seguendo, diamo delle indicazioni di trama per La danza della realtà? Beh, sai, la trama sui film di Alejandro è una cosa un po' difficile. Anzi, per lui stesso la trama è assolutamente irrilevante, diciamo, dal punto di vista. Il racconto per lui è una cosa un po' diversa. Quindi sì. Quello che si può dire certamente è che questa è un po' una rivisitazione di tutta la sua opera e di tutta la sua vita stessa. Quindi è una sorta di biografia visionaria e surreale, come è tipico e caratteristico del linguaggio di Alejandro. Però che è tutta da gustare con la visione, non saprei come spiegarla. Sì, un viaggio nel surrealismo, come è tipico nel lavoro di Jodorowsky, con alcuni elementi di riferimento legati al reale. Salvatore, sì. Come sai qualcosa rispetto alla genesi di quest'opera? Beh, la genesi di quest'opera, come magari qualcuno già saprà, è tratta intanto da un romanzo che Alejandro aveva scritto nel 2006, che in Italia era uscito da Feltrinelli. La danza della realtà in pratica è un ritorno alla sua origine, quindi ritorna dopo più di 50 anni nel suo paese natio, che è Tocopilla, che è un paesino perduto a 2000 km da Santiago, vicino al deserto, con accanto le miniere di rame, dove lui è nato, da cui poi è scappato giovane, è stato via molto presto da lì, e quindi ritorna lì, rivede tutta la sua infanzia. Gli stessi personaggi del film, che sono tra l'altro gli stessi membri della sua famiglia, sono interpretati direttamente dai suoi figli, quindi uno dei suoi figli interpreta il ruolo del papà di Alejandro, quindi c'è anche una... Per chi conosce Alejandro c'è anche un aspetto legato alla psicomagia, come si può dire. Ecco, che probabilmente questo film è un atto che Alejandro, psicomagico, che Alejandro ha rivolto a se stesso, come dice lui stesso. E quindi restituisce non tanto la memoria del suo passato statica e immutabile, quanto rappresenta la modifica, restituendo anche una nuova dimensione, una nuova realtà agli stessi personaggi, al di là di quello che poi sono stati effettivamente. Come siete arrivati a questo film e come avete poi deciso la distribuzione? Guarda, questo film era stato a Cannes nel 2013, secondo noi era un film che da allora più o meno ho pensato già, diciamo, di seguirlo in qualche maniera, però è stato molto difficile perché i film, le vendite internazionali del film sono di Pathé, che come sapete è una grandissima casa di distribuzione internazionale, di produzione anche, forse storicamente una delle prime, siamo la prima. Ed è stato molto difficile perché noi invece ci siamo costituiti praticamente insieme ad Antonio Bertoli, che è mio socio, ci siamo costituiti praticamente per fare questa operazione totalmente a rischio, e non avendo chiaramente i mezzi delle grandi distribuzioni, quindi semplicemente tentando di fare una lotta per portarlo nelle sale italiane, ritenendo che fosse un film da vedere in Italia. Mm-hmm. Ci siamo scontrati invece con una, chiaramente lo sapevamo già in partenza, con una, diciamo, un mercato che è quello delle sale soprattutto, è molto concentrato, quindi è organizzato in circuiti principalmente, quindi siamo ancora in attesa di avere delle risposte per assicurare che questo film vada in sala, in tante sale. L'uscita di oggi è nell'unica sala che ad oggi ci ha dato una programmazione di 2 o 3 settimane, che è lo Spazio Attivi di Firenze, che noi ringraziamo ovviamente. È sicuramente un'uscita reale, però diciamo che rispetto al programma che noi ci eravamo dati, cioè di uscire con 35-40 copie in contemporanea, probabilmente questa uscita verrà non appena queste risposte arriveranno, se arriveranno. Allora, senza comunque perdersi d'animo e tentando di fare conoscere comunque al pubblico italiano il film anche in occasioni limitate, abbiamo pensato comunque sia di, collaborando anche con varie associazioni sui territori singoli delle singole città, di creare degli eventi unici per arrivare a Leandro e il film insieme, considerandolo come se fosse uno spettacolo teatrale quasi, che desse la possibilità sia di incontrare personalmente Leandro, ma di vedere anche il film in anteprima assoluta, non sapendo se poi questo film effettivamente, ad oggi noi non lo sappiamo, se riuscirà ad andare in sala. Questo mi permette, se ne ho un minuto ancora, di in questo momento ci sono tante critiche che sono piovute addosso, soprattutto per l'evento che si è tenuto ieri qui a Bologna e in parte anche a Roma. C'è addirittura chi ci sta scusando in questo momento di truffa, cioè c'è stata una errata gestione, ma non imputabile a noi, ma o tantomeno non soltanto a noi, perché era l'evento di ieri organizzato anche con la Cineteca di Bologna. La Cineteca di Bologna si è riservato un numero di posti per poterci far fare questa cosa qui in Cineteca, e quei posti che ha venduti a un prezzo molto più basso rispetto a quello che noi abbiamo praticato, creando una situazione di scompiglio. Cioè adesso stiamo pensando, io non appena sarò fermo un attimo risponderò a tutte quelle persone che di cui ho condiviso totalmente il punto di vista, perché io stesso al loro posto avrei reagito in questo modo. Quello che ci tengo a dire è che noi questa attività la stiamo facendo a totale nostro rischio, e ha un costo importante riuscire a spostare Leandro, farlo andare nelle varie città, far vedere il film prendendo noi gli spazi, quindi senza nessun sostegno da parte di chi che sia, anticipando tutto di tasca nostra, non sapendo neanche se mai riusciremo a recuperare non soltanto questi soldi, ma anche quelli che dobbiamo a Pathé per aver acquisito i diritti. Quindi questa cosa mi fa comunque, darò risposta entro il pomeriggio sicuramente a quelle persone che su Facebook in questo momento stanno scrivendo qualunque cosa, anche falsa, anche non sapendo probabilmente come sono andate le cose, noi gliele spiegheremo. Spero che questo non così aiuti a cambiare il loro punto di vista, se lo riterranno. Senti Salvatore, diamo dei riferimenti internet per chi volesse sapere qualcosa sulla distribuzione nelle sale della Danza della Realtà? Guarda, i riferimenti internet ci sono già, noi non abbiamo, stiamo costruendo il nostro sito sì. In questo momento, quindi siamo partiti proprio da zero. Abbiamo avuto un'attenzione da parte della stampa perché abbiamo fatto una conferenza stampa dove finalmente si è, diciamo, annunciata questa operazione, quindi saremo noi a fare uscire queste notizie di volta in volta non appena si stringeranno gli accordi io spero quanto prima, quantomeno per prevederne un'uscita appunto su tante sale in Italia. Attualmente l'unico modo che c'è per vedere il film, e ripeto, alla luce di questo va considerata anche il fatto che magari per suddividere tra tutti i biglietti di uno spettacolo il costo del singolo evento, a volte le cifre che si devono pagare sono alte, noi da questo non stiamo guadagnando nulla ancora, cioè non vediamo la luce. Io spero quanto prima, ecco, di poter annunciare dal nostro sito quali saranno le possibili uscite di questo film. Intanto continueremo a chiudere singola tappa man mano che nelle varie città riusciamo a farlo, chiaramente, quindi, perché riceviamo paradossalmente un'enorme domanda dalle singole sale, anche se fanno parte di quei circuiti che gestiscono la loro programmazione. Naturalmente funziona così, la singola sala difficilmente può autonomamente programmare i film, ma molti di questi comunque vogliono programmarlo. Allora quello che noi stiamo tentando di dire con questo piccolo tour è: anche i circuiti distributivi più grandi, no, sicuramente, però che il film ha bisogno di essere visto, c'è un pubblico potenziale che lo richiede, che vuole vederlo, ed è assurdo che non si riesca per motivi appunto che non sono esplicitamente commerciali. La saturazione della programmazione nelle sale, specialmente tra ottobre e febbraio, è cosa nota. Noi comunque stiamo tentando di lanciare questo messaggio sperando che qualcuno poi se ne accorga e voglia aiutarci con un numero di sale minimo a distribuirlo in tutta l'Italia. Bene, allora ci terrete informati di questo. Io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie a voi. Ciao Salvatore. Salvatore Pecoraro di Garabombo sulla distribuzione del film La danza della realtà di Alejandro Jodorowsky, in uscita in sala oggi giovedì 30 ottobre. Ritroviamo Andrea Occhipinti di Lucky Red per parlare della distribuzione del film Ritorno a Lavana di Canté, in uscita in sala oggi giovedì 30 ottobre. Andrea, ben ritrovato. Ben ritrovati a voi, buongiorno. Allora, diamo subito qualche indicazione rispetto al racconto e a chi ci ascolta. Ma Laurent Canté, forse lo ricordate, un bravissimo regista francese, tra l'altro vinse a Cannes con il film La Classe. In questo caso ha ambientato il suo film a Lavana, a Cuba, e la storia di un gruppo di amici su una terrazza, e il pretesto di questa riunione è un amico di questo gruppo, che è stato esule per 15 anni in Spagna, in qualche modo lo festeggiano. Come dire, un po' un bilancio delle loro vite, in qualche modo è come un po' un grande freddo, e lui in particolare non è tornato quando la sua donna è stata male, non è tornato a causa anche della realtà cubana, del regime, ma insomma è soprattutto un film sulle loro vite, sulle illusioni che avevano, sulle speranze che avevano, e queste illusioni spesso sono state stroncate dalla realtà. È un film anche molto emotivo in questo senso. La musica è molto presente, in qualche modo fa parte proprio del bagaglio dei ricordi che fanno riaffiorare un po' la loro gioventù. Il film è stato a Venezia ed ha avuto un'accoglienza fantastica, ha vinto le giornate degli autori. Le critiche che sono uscite oggi sono bellissime, veramente bellissime. Siamo molto felici perché tra l'altro questo film esce oggi in Italia prima ancora che sia in Francia o in qualsiasi altro paese, per cui siamo molto contenti insomma dell'accoglienza sia a Venezia che della critica che ha avuto. Una sceneggiatura scritta a quattro mani con un drammaturgo cubano che si occupa di teatro, e sotto i riflettori una generazione tra i 50 e i 60 anni che ha creduto profondamente nella rivoluzione e che invece si è scontrata con il controllo e con la paura che questo genera. Sì, il film è stato scritto da Padura insieme a Canté, che è un drammaturgo cubano, e racconta di questo, racconta un po' delle speranze, delle illusioni, di un sogno che viene infranto in qualche modo, che è stato la realtà cubana, le aspettative che hanno fatto credere a questi protagonisti che poi non si sono avverate, non sono state attese. Ma nello stesso tempo, come diceva Canté, è un po' una storia universale, perché come dire, tutti noi in qualche modo abbiamo avuto, quando siamo stati ragazzi, dei sogni, degli ideali che magari non sono stati attesi o non sono andati nella direzione che volevamo, insomma, in qualche modo, cioè, riguarda un po', come dire, una generazione più ampia anche in Occidente, insomma, voglio dire, lui si identifica abbastanza rispetto a quella storia, essendo francese e avendo vissuto una realtà completamente diversa, per cui in quel senso lì è molto più universale. Senti, la scelta di portarlo in Italia, poi rispetto anche alla distribuzione, come vi siete mossi? Ma apprezzavo molto Canté, in particolare dopo il film che aveva vinto Cannes, La Classe, avevo visto delle immagini, ho letto questa sceneggiatura e mi ha emozionato molto, e poi insomma il film è stato invitato a Venezia, dove appunto, come dicevo prima, ha vinto le giornate degli autori, e lì abbiamo deciso di far uscire per prima in Italia il film, perché in Francia uscirà fra un mese, per cui insomma in qualche modo saremo l'anteprima mondiale di questo film, avviene in Italia. E io sono molto contento della reazione che c'è stata, delle emozioni che suscita. Gli autori, tra l'altro, sono molto bravi, sono molto coinvolgenti, e insomma è bella l'atmosfera che si crea intorno a questa tavola, fra brindisi che fanno, fra ricordi che fanno, fra bilanci che fanno, insomma, come dicevo, è un po' un grande freddo in qualche modo, insomma, vuol dire, è uno schema ripetuto più volte, ma molto riuscito in questo caso, da questi attori che riescono un po' a trasmettere, insomma, soprattutto il sentimento di quello che hanno vissuto, ognuno con una storia diversa, con una realtà diversa, appunto uno esule, uno che ha accettato i compromessi del governo, un altro che era un artista che in qualche modo ha perso l'ispirazione, si è autocastrato, insomma, quindi ognuno ha una realtà diversa. E questa donna piena di rancori per aver perso un'amica, per sapere che il marito di questa donna non è mai tornato nel momento del bisogno, nel momento in cui stava male, insomma, come dire, è anche un momento di sciogliere nodi, di fare chiarezza, per questo è molto, arriva molto al cuore il film, che è uno dei suoi pregi. Ecco, proprio a questo proposito volevo chiederti personalmente quali sono a tuo avviso gli elementi forti che più ti hanno colpito del film. Ma io di solito il criterio di giudizio che valuto quando devo scegliere un film sono un po' questi: se un film mi emoziona, se ci sono delle scene che mi emozionano, se mi tocca, penso che questo possa succedere anche ad altri. Sì. E se mi racconta qualcosa, se in qualche modo, come dire, entro nella storia e mi dimentico che è un film e sono coinvolto da quello che mi racconta, dalle storie di questi personaggi, vuol dire che è un buon film. E questo ha quelle caratteristiche. Senti, in quante copie esce? Il film esce in un'ottantina di copie. Beh, insomma, importante. E, io ti abbraccio e a risentirci presto per altre novità. Grazie, un saluto a tutti voi e andate a vedere Ritorno all'Avana, che in originale è Ritorno a Itaca, perché esatto, in qualche modo è come un Ulisse che ritornasse alla sua Itaca dopo molte avventure e molti viaggi. Ciao Andrea, un abbraccio. A presto, ciao. Bene, con questa chiudiamo la puntata di oggi, di questa settimana di Visionari, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni le trovate sul sito internet della radio, ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi è visionari@ondarossa.info.